una canzone molto vecchia, se permettete. È una canzone che ha 10 anni, credo. È ancora una delle mie preferite perché mi ricorda un periodo molto bello della mia vita. Spero che qualcuno di voi se la ricordi ancora. Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti ma alberi, alberi infiniti. Quando tu sei vicino a me, restiamo qui, abbandonati come se non ci fosse più.